Questo pezzo è dedicato ai falsi intellettuali di provincia e alle loro schifosissime feste e alla loro schifosissima cultura e alla loro schifosissima musica. Rovinare la musica, rovinare il jazz. Buttare dentro gli strumenti. Rovinare la musica, rovinare il jazz. Schifosa cultura. Rovinare la musica, rovinare la cultura, rompere i coglioni come si può. Du, du, du, du. Che vi piace tanto quello che siete in testa non si esce mai e tutto il giorno con questo movimento la la la la la due notte rovinare la musica rovinare il jazz lasciare i dischi di tuo papà. Padre, di nuovo,